Che dopo i 6 mesi puntualmente ha restituito la cifra e non c'è stato nessun problema. Sicuramente è una brava persona questo Rosa Verde, dai. Cioè, per stare così 2 milioni sicuramente aveva un buon cuore. Sì, tu se lo vedevi, lui viveva una vita da cane, pensa che non aveva nemmeno la corrente elettrica nel magazzino, o meglio nel tugurio dove viveva, poi da via San Donato, la stradina appena più su, abitava lì in quella specie di piazzuola, e viveva lì. Però quando beveva era tremendo, perché parlava male con tutti, soprattutto offendendo anche le mogli, i figli, le figlie dei vari CB. Magari la mattina era pranzo di questo, però la sera pure andava a casa sua, si ubriacava e incominciava a raccontare l'epistola di tutto quello, per carità, era tremendo. Però ripeto, come persona era intelligentissimo, questo te lo posso garantire, solo che non aveva cervello, non aveva, perché una volta che beveva non era più lui. Il problema è quello. Molta gente, molti talenti che ho avuto modo anche di conoscere anch'io, anche quando io facevo, per esempio, da ragazzino facevo impiccio in alluminio, e c'era questo signore, Antonio, che è stato, mi sembra, batterista anche dei baronetti, dei vecchi baronetti, e che era bravissimo lavorando, però aveva quel vizio che dicevi tu, purtroppo, ogni tanto doveva partire, e a volte esagerava e non si poteva tenere più al lavoro. Peccato, come dici tu, gente che dei piccoli geni, e poi si perdono con questi problemi qua. Sì, no, devo dire, infatti, tanto per darti un'idea, è stato anche sindacalista ad Alghero, lui è stato sindacalista, e infatti io tante volte ho affrontato il discorso con lui, ma perché ti cerchi di abbruttirti così? Quando guarda, dice, io ho avuto una delusione d'amore, mi ha detto, la delusione d'amore ti ha portato alla bottiglia, sì, dice, preferisco, dice, la bottiglia, dice, che c'è entrato in un'altra avventura amorosa. E si è fatto, no, non è così, stai sbagliando completamente. Sì, forse sto sbagliando, però preferisco fare così, come credi, fai come vuoi. Poi mi ricordo, avevo una lambretta che la faceva in 1000 pezzi, e a volte ci metteva, la smontava, la aggiustava, la rimetteva in funzione, anche quella poi. Siccome, sai, quando era ubriaco faceva il passo anche la lambretta, e io ho detto, oh, guarda che è pericolosissimo con due cose che fai tu. Perché da me veniva tante volte, veniva la mattina presto, quando era sobrio, e dunque certi argomenti li affrontavamo. E io dicevo, allora dice, faccio così, mollo la lambretta, però non mollo la bottiglia. Guarda, stai sbagliando, perché ti stai distruggendo. Tra l'altro era una persona di buonissima famiglia, tu pensa che il fratello era impiegato di banca, tra l'altro, che poi era finito nella banca Porto Torres, lavorava lì, l'avevano trasferito, per dirti, no, era di buonissima famiglia, famiglia onesta, solo che lui, ripeto, ha avuto questa delusione e si è dato allo sbando così. E cosa vuoi fare? Ne avete sentito anche di peggio, questi non bevevano, ma hanno tentato altre cose, anche di togliersi la vita, sempre per quei problemi lì, Sì, beh certo, sicuramente, ma per dire, no? Poi, siccome era strapotente al baracchino, quando beveva, lui non aveva mai piazzato l'antenna, lui andava sempre con i dipoli, dunque dal tetto, che è un tetto abbastanza basso, nel magazzino dove abitava lì, nella stretta più su di via San Donato, discendeva il cavo davanti, era un tugurio praticamente, al buio, aveva roba di 5 o 6 gatti, comprava il mangiare, il pollo addirittura per i gatti, comprava, e lui magari mangiava qualche panino imbottito così, però la bottiglia non gli mancava mai, lui si nutriva praticamente più che altro di birra e basta. E cosa è successo? Siccome l'avevano minacciato, qualcuno lo ha anche picchiato più di una volta, anche al lavoro, perché era anche un bravo metalmeccanico, anche tra l'altro, lavorava insieme ad un altro CB, lavorava nella stessa azienda lì di Porto Torres, e un bel giorno me ne viene tutto questo in faccia, aveva gli occhi più neri delle melanzane, si può immaginare. Cosa è successo? Dice Giovanni, dice, col figlio mi ha picchiato. Giovanni era un altro ex CB che non c'è più adesso, dai, e nemmeno lui. E dunque, perché? Perché lui la sera prima aveva offeso tutta la famiglia. Allora, dopo all'uscita dal lavoro, lì stesso in stabilimento se l'ha messo a mano, boh, tutti e due, padre e figlio, che lavoravano tutti e due nella stessa azienda. E più lui, capito, Ofra? Sì, che ti puoi immaginare che è data di avventure. Sì, e poi era anche mezzo acceso, ma guarda che l'avevano fatto nero. No, poi mi ricordo anche, non so se ti ricordi, modulava dalle parti di San Quirico, Villa Volizia, quella zona lì, si chiamava Tramonto, se non ricordo male, Tramonto, ti ricorda qualcosa? No, non Tramonto, Ramon, forse stai parlando di Ramon, Francesco Ramon, quello era radioamatore, aveva la patente per i 2 metri, però non aveva la, perché allora non era, diciamo, la patente era sempre in due versioni, i 2 metri e poi gli HF, lui aveva la patente per i 2 metri, cioè per il VHF. Francesco Ramon, stai parlando di quello probabilmente? No, Francesco Ramon è lì, San Giorgio, da vicino alle Punti. Io ti parlo più avanti, San Quirico, Villa Gorizia, quella zona lì, parlava da lì. Si chiamava Tramonto, usava questo nome qua, ma magari non arrivava bene a Sasso, non lo so. No, non te lo so dire, non me lo ricordo questo nome. So che ce n'era uno lì all'ingresso di San Giovanni, vicino al passaggio a livello di San Giovanni, ce n'era uno lì, ce n'era, però non ricordo se si chiamasse Tramonto o meno, non lo so, qui alle Punti ce ne sono stati diversi, comunque ce ne sono stati, che poi uno per volta sono andati via tutti. Il più famoso di tutti, naturalmente, Walter e Giuseppe Marcus III, l'avrai sentito, suppongo di sì, perché con Giuseppe ci sentivamo praticamente tutti i giorni, eravamo vicini di casa e poi dialogava molto anche con Walter. Allora, in quegli anni, soprattutto Walter era un ragazzo, avrà avuto se non 18 anni, non di più. No, non mi ricordo l'altro nome che hai fatto. Vabbè, Walter, sì, poi abitava di fronte dove abitava, diciamo, la mia attuale moglie, dai. Mi ricordo quando parlava Walter, mi faceva battimento zero, non sentiva più nessuno. Eh beh sì, una volta si è sentito andare a campare nell'altoparlante della chiesa, ti puoi immaginare. E vabbè, usava certe potenze, facevano delle gare simpatiche, tra l'altro, un po' da scelerati, perché non si potevano fare certe cose, però caricavano lui e altre persone, però erano gare simpatiche che alla gente piacevano, perché tutti rimanevano incuriositi da sapere chi era il più forte, e dunque diciamo che si più o meno si equivalevano l'uno con l'altro, non è che c'era uno più forte o uno più debole, assolutamente no. In certe direzioni era più forte Walter, in certe di altre direzioni erano più forti altre, magari, sai, era simpatico, però studiare l'ascolto per vedere e sentire queste gare, per così dire. Erano gare goliardiche, come si dice. Sì, poi come dici tu, quello che conta anche la posizione, favorevole verso una parte magari, o verso un'altra, così come dici tu. Appunto, perché cioè, le gare quando si fanno si devono fare dalla stessa antenna, con la stessa antenna, dalla stessa posizione e soprattutto con gli stessi watt di potenza, invece lì caricavano a livello di parecchi, ma tante watt. È chiaro che poi non facevano altro che spegnere tutto attorno, è tutto il secondario. Parliamo di qualche kilowatt. Si parlava così di qualche kilowatt, certo, ma anche a Sassari ce n'erano, mi ricordo c'era Pino Forteblaccio, anche lui aveva un lineare da 800 watt e abitava lì in via Marghinuti, per così dire, le casette in Canada, anche lui con la direttiva, poi era tremendo anche lui, ma in carità, no. Non erano cose da fare, purtroppo, ripeto, in maniera bonaria, devo dire che tutte queste persone sono un po' scellerate, dai, in maniera bonaria, senza offendere a nessuno, ci mancherebbe. Poi mi ricordo, vabbè, già più in qua come anni, Torre San Giovanni, te lo ricordi? Anche lui era fissato con la mania della potenza. Ma diciamo che in linea di massima la mania della potenza ce l'avevano un po' tutti quanti, salvo qualcuno proprio, perché si cercava di riuscire a superarsi l'uno con l'altro, ma poi naturalmente tutto era subordinato alla posizione, al tipo dell'antenna, al tipo dell'attrezzatura che avevi, sicché non è che c'era, però c'era una specie, diciamo, rivalità generale da parte di tutti, perché non si parlava altro che di potenza, di arrivare là, sono arrivato là e così via. Ma no, non era il caso, invece oggigiorno il QSO è tranquillo, a parte il fatto che siamo quattro gatti, no? Vabbè, comunque prima c'era più gusto nel senso, c'era più confusione, indubbiamente, per carità, era una confusione che c'erano dei giorni impossibili, poi c'era tanta gente molto ma molto maleducata, un certo subastore a quei tempi, per carità, era vergognoso nel modo come entrava e come parlava contro tutti, di più a tutti ne diceva. E allora poi c'erano tante donne, e ci sono state tante cose, ci sono state delle separazioni, ci sono state dei fidanzamenti e anche delle unioni, sempre a causa del baracchino, insomma è successo un po' di tutto in quegli anni. Era un'enorme lavatrice, dove ci girava di tutto. Sì, questa gara le facevi come quando avevi il motorino, no? Lo truccavi, le cambiavi la marmitta, i pezzi, cromati, non cromati, per essere sempre più veloce degli altri. E così era il baracchino, era una gara. E vabbè, altri tempi. Mi ricordo certe ruote chilometriche. Prima di parlare ci passavano 3/4 d'ora. Infatti, poi c'era gente che quando prendeva il microfono non lo mollava più, uno di questi era Falcone, lo sappiamo, ma Falcone, poveretto, c'era da compatirlo perché è stata una persona malata, ha avuto quello che ha avuto, però io mi ricordo benissimo, c'era un tipo che era peggio di Falcone, tant'è vero, quando era in ruota lui prendeva il microfono ma teneva anche 3/4 d'ora e anche di più, sempre parlando senza mai interrompere, noi cosa facevamo? Ce l'andavamo in un'altra ruota e ogni tanto passavamo lì per ascoltare e poi mi è ancora parlando Sammy, e questo faceva anche l'arbitro di calcio, che non ricordo più come si chiamasse, anche lui aveva il baracchino e più faceva l'arbitro e dunque ti raccontava tutta la storia del pallone eccetera eccetera, mamma mia che lungo che era, non mi ricordo come si chiamava, vabbè dai. Faceva tutta la telecronaca della partita. Tutti i commenti ti raccontava tutto del mondo del calcio dilettante naturalmente, no? Per quello c'era il periodo, ci sono stati degli anni che trasmettevano anche la partita in diretta tramite baracchino, certo, le partite ad esempio del Sorso, del Castelsardo, queste squadre così, no? C'era uno che andava, piazzava la stazione in campo un gol hanno fatto, ci sono le partite di Serie B mi sembra, stavo dicendo, e dunque trasmetteva quell'ora, allora delle partite, allora esisteva tutto il calcio minuto per minuto, no? E lui lo faceva in 27, tutto il calcio minuto per minuto, delle squadre dilettanti, ripeto, molto spesso il calcio tardo e molto spesso anche il sorso e così via. Sì, il mio ex collega è in pensione, la partita dell'Alghero la trasmetteva con un trasmettitore così, con un portatile, però la mandava in radio e poi dalla radio trasmetteva con l'antenna della radio sui 100, 101 mi sembra, Teleradio Alghero 101, sì, sui 101 trasmetteva. Ho capito, no, questo è proprio direttamente sul baracchino, questo mandava la radiocronaca direttamente sul baracchino, per cui la domenica, questo succedeva sempre la domenica sera, all'ora del calcio minuto per minuto, come allora le squadre di Serie A giocavano tutte alla stessa ora, alla stessa giornata, non come oggi fanno il campionato spezzatino, per cui non mi piace nemmeno più di tanto, prima era più bello perché giocavano tutti alla stessa ora, nessuno di loro sapeva dell'altra squadra che magari era la più rivale competitiva, eccetera eccetera, e questo faceva la cronaca appunto, naturalmente c'era sempre qualcuno che le metteva la portante perché non voleva ascoltarla, però in linea di massima si riusciva, perlomeno io riuscivo sempre a ricevere le partite abitando qua, sai, dalla zona da dove trasmettevano, per me era una posizione buona, se che riuscivo ad ascoltare quasi tutto quello che trasmetteva o fra. Beh, altri tempi, no? Sembra che stiamo parlando di chissà di quale epoca invece. Cos'è, una cinquantina d'anni? Sì, forse una cinquantina d'anni. No, ma anche di meno di 50, io sono 49 anni per questa, e queste cose succedevano negli anni 70 praticamente, per alcuni anni facevano un po' queste radiocronache. Poi c'era una tipa che quella era molto gettonata come da parte di CB, perché c'era un tipo sempre che metteva una canzone, li permetteva, una cosa del genere, una vecchia canzone, sai, credo che fosse in francese, non lo so, un po' allusiva, eccetera, eccetera, e lei si scioglieva, quando questo gli metteva questa canzone, lei si scioglieva, e allora tutti lì ad ascoltare, mamma mia, che confusione che si faceva. E chi era lei, si può dire, no? Sì, bene o male diciamo che me lo ricordo, però no, in frequenza è meglio non dirlo, dai. Infatti ho chiesto per delicatezza, no, qualcuna me la ricordo anch'io, non tantissime donne, però qualcuna c'era. Appunto, adesso c'è sempre ciò che voglia dire ti amo, qualcosa del genere, e questa era proprio una canzone che aveva un certo significato, dai, praticamente era una specie di dichiarazione d'amore, ma lei si scioglieva tutte le volte, poi sembrava che stesse sempre appostata lì in quel canale, proprio perché sapeva che a quell'ora entrava questo e gli metteva questo disco, gli metteva e lì soddisfattissima. Vabbè, dai, chissà se è ancora viva poveretta, ma spero di sì. E lì si pavoneggiava. Sì, beh certo. Sai, alle volte quando si è giovane anche per certe cose ci si illude o addirittura si perde la testa, no? Ripeto, ne sono successe di cose, quante, anche giro di corna eccetera, così tra l'altro, c'era una lì all'emiciclo Garibaldi, mi ricordo, dove nel portone dove una volta c'era la biglietteria dei pullman, lì c'era questa che era proprio, mamma mia, e un certo Gianni, non faccio altri nomi, era mantato con lei, insomma, infatti era stata provata dalla scoperta dal marito, che poi si sono separati, eccetera, eccetera, eccetera. Sai come succedono queste cose, no? Vedete, il baracchino ha sollevato delle belle storie, ma anche delle brutte storie, fra. Come oggi i telefonini, dai, più o meno la stessa cosa, era il telefonino di oggi, diciamo. Diciamo che era un mezzo di comunicazione molto diffuso, perlomeno qui a Sassari, ma non solo a Sassari, in tutta la provincia di Sassari, perché tutti i paesetti limitrofi, diciamo che erano anche loro abbastanza ben attrezzati come numero di CB, e dunque parlavamo con tutti. Poi c'era una certa persona di Proaghe che lavorava, tra l'altro, sempre senza fare mai nome, ma chi è anziano della frequenza certe cose già le ha, era vista male proprio a riguardo di questo particolare, sai, sempre per il fatto di uomini, eccetera. Poi bisognava vedere se effettivamente era così, e chi lo sa, però tu lo sai, no? voci sussurrate, voci di popolo, e un po' di verità ci poteva anche essere, chi lo sa. Ma sì, in mezzo alle fesserie c'è sempre un po' di verità. Ti conviene scrivere un libro, prima che ti dimentichi queste storie. Allora, dai, io ti devo salutare, mi chiamano qua, sarà da preparare un po' per la cena. Un abbraccio, mi ha fatto piacere sentirti, grazie per la chiacchierata. E ci aggiorniamo alle prossime, dai. Se dovete rientrare a Claudio, me lo saluti, perché è dovuto andare via, poco non è rientrato. Dai, saluto anche gli ascoltoni, gli eventuali. A te ancora il mic, aspetto il finalino e poi chiudo. Un abbraccio ancora a te, Giulio. Ok, fra, hai cambiato il tutto, dai. Un abbraccio virtuale anche da parte mia. Alle prossime. È stato un piacere ascoltarti, tu lo sai. Una certa stima ce l'ho. Ok, ci sentiamo. Ciao, fra. Grazie ancora, buona cena a te e famiglia. Ciao, ciao. Grazie ancora, ciao. Siamo sempre i quattro gatti, siamo tu, sempre passaggio. No, vabbè, magari oggi un po' così, dai. Coglione, che fitella, è meglio qua pagando un po' qua, ecco, coglione, tu che ti sveglio qua, che rende pagando un po' qua, io ti faccio le mie luci, io non ti credo drogata, lui ti credo drogata, se non sei un paiazzo che rompe il coglione. Tempi. comunque c'ho il DVD, ma il CD MP3. Io mi ero fatto la chiavetta MP3, mi pare, e poi l'ho persa. Cioè, ho scaricato dal sito tutti gli MP3 e messo su una chiavetta. Anche su CD. Anzi, mi hai dato un'idea. È da un po' che non masterizzo, mi sa che me ne masterizzo uno. E lo intitoliamo La creperia di Paoletto. Vai Anto. Il CD. avanzò, devi andare al sito e ci sono tutte le incazzature di Paoletto. E che sito è? Radio Nuraghe, aspetta, se me lo ricordo te lo mando, dai. Luca, se ce l'hai anche tu. Se ce l'hai, te lo c'ho il CD, perfetto. Oppure direttamente alla copia del CD li puoi fare, o far fare. Se c'è tutto, tutto è. Ok, va bene. Lui, te ne intendi tu di macchinette da caffè, di quelle a capsule? Bene, cosa c'ha? Siccome me ne hanno regalata una, praticamente è nuova, è semi-nuova, per non dire nuova. Però il caffè non è cremoso e denso come credevo io. Cioè, sembra fatto con la macchina da caffè con la polvere, col pressino, tipo quelle da bar. Non è densa e tende a perdere un po' di acqua nella vaschetta che raccoglie le capsule. Eppure sembrano tutti a posto, guarnizioni, balle varie, boh. Le capsule sono che non servono. E sono quelle lavazzami, sono le originali lavazza suerte. Ma sei sicuro? Le ho comprate poco fa, cioè quando, 2 ore fa, quando è prima di chiudere. Però me l'aspettavo francamente più cremoso, più profumato. Invece te l'ho detto, con quella macchina che ho io che metti la polvere di caffè, no, il caffè sfuso. L'ho pressi, tipo quello del bar, col braccetto, no? Alla fine è buono lo mattessi, ma... E poi comunque di lui, siccome è semi-nuova, è nuova la macchina, cioè se me l'hanno regalata ce l'ha un perché. Forse anche chi ce l'aveva non era soddisfatto. Guarda, di solito sono le capsule difettose, ti fanno quel problema lì. È già successo in una che questa signora vicino a casa, ma sono accorto dopo, perché mettevo la capsule e perdeva acqua, non usciva bene il caffè, capito? E poi perché le capsule non erano originali, non lo so. Infatti ho voluto quelle originali per provarla. Oh, già è comoda, non sporchi di caffè come facevo con l'altra. Metti la capsula, premi, butti la capsula, fatto. Non devi stare a pulire, a sciacquare dove metti il caffè, no, nel braccetto. È per Mandrone, mi va bene per me. Vai, Anto. Scappa. È proprio quella che va bene per te. Sì, poi ogni tanto vanno buttate le capsule che vanno nel cassettino, un po' di acqua in più va asciugata che va a finire acqua residua nella... Eia, vabbè, comunque, niente di eccezionale, credo meglio. Infatti chi l'ha data ha preso la Nespresso, ha cambiato, questa è la lavazza a modo mio, si è preso la Nespresso ed è più contento di quella. No, aspetta. La moto mia deve funzionare bene. No, non è gai su conto, no. Aspetta, io ce l'ho. Ne ho avuto diverse. Non è così, no. Oh, faccio un attimo di me come la fa la puntura a mano. Che? No, c'è qualcosa con la macchinetta. Ma bene scalda, sì. Sì, tutto a posto. Anzi... Se provi a mettere il dito quando scaricando l'acqua normale, no, senza la capsula brucia abbastanza l'acqua. Cioè no, non è cattivo, cerca di capire, non è cattivo, ma mi ha detto che pure è buono. Ha detto che secondo lei è un po' più buono di quello che faccio con la macchina a braccetto. Io mi fido di lei, comunque adesso il tempo di consumare la confezione di capsule e poi una volta consumate le capsule valuterò se tenerla o rimettere l'altra. Paolo, vende Rosmitti anche quello di Viale Dante, noi compravamo il Borbone. Capito, il Borbone, la qualità oro, secondo me era il migliore che c'era in circolazione. Sì, me l'hanno indicato, Borbone, caffè Borbone, molto molto buono. E vabbè, vediamo. Comunque, tanto c'è poco da fare, se uno vuole la mala, il caffè è veramente buono, se lo piglia al bar. E lì c'hanno macchine che lavorano a pressioni molto ma molto elevate. E ti espre- proprio ti, come dire, ti estraggono l'anima del caffè. Cappa. conosco una la provi a vedere. Ma so guarda in via Milano se ce n'è qualcuna. Se ne comparate. La gusti e la provi. Però ti dico già che il Bourbone qualità oro è un ottimo prodotto. E io, sì, infatti adesso vedrò, dai, decido. Sì, comoda, quella è comoda, metti la capsula, la butti, è molto veloce da fare. E lì, sai, col cucchiaino, mettere il caffè, lo devi pressare, un po' te ne ingaggi a destra manca, capito? Poi devi pulire, togliere il caffè usato, sciacquare il braccetto, lì praticamente dopo il caffè, quando la devo fermare, gli faccio passare l'acqua a vuoto, no, per pulire l'ugello, l'acqua calda, in modo da togliere eventuali residui di caffè nel beccuccio, nel beccuccio erogatore, come lo puoi chiamare. Sì, ho capito. Sì, già la conosco già come è fatta. Chi c'è tu, la Jolly o l'altra? O quella da mettere a capsula, come c'è quella da schiacciare? Quella che c'è dalla capsula c'è quel braccio, quel coso lungo, quella a fare, come si dice, argentato da schiacciare, o c'è quella che entra e esce? Allora, è il modello Jolly, e c'ha quella leva grande, cromata, la alzi tutta, metti la capsula sopra, chiudi la leva e premi il bottone. Sì, modello Jolly, esatto, color verde lime, nera e lime, che sarebbe quella specie di verdolino fluo tipo me. Quella lì, il caffetto lo fa buono, lo fa anche cremoso, ce l'ho anche io, ce l'ho. Comunque tu sai quale cosa che ci frega, che il caffè al bar è molto ma molto più corto, cioè se tu vuoi vedere il volume della tazzina e il contenuto del caffè ce n'è pochissimo, ecco perché al bar sembra bello denso, bello profumato, mentre a casa almeno io ho il vizio di farlo sempre più lungo di quello che te lo danno al bar, se non il doppio, ecco perché poi ti sembra più blando, te capi? Vabbè, adesso ho fatto delle prove, l'ho spurgata un po', soprattutto, è meglio spurgarla. Ripeto, magari sono pignolo io sono caffeinomane, per quello sono pignolo. Ok, comunque, me l'hanno regalata, funziona, la uso, insomma, la uso, poi se mi piace la tengo. Caffa, vai tranquillo che quella è una signora macchinetta, Vai tranquillo. Questa lavora mi pare con 10 atmosfere, intorno ai 10, una cosa del genere, non è molto me. Invece la Nespresso lavora con 19 atmosfere di pressione dell'acqua e dicono che rende il caffè ancora più cremoso, più denso, più tutto, ma d'altronde c'era un modo di provarla la Nespresso, che ha un modello particolare, la fa la De Longhi, non mi ricordo il modello, e c'è tutta nera oppure nera e rossa, mi pare, non esita che guardo, vediamo se è rientrato Luca. No, ma Nespresso comunque molti non la preferiscono, ma poi ci sono anche le compatibili da Eurospin. Anto, puoi alzare un po' la voce, che ti sento un po' basso, un po' lontano. Ho detto che ci sono le compatibili da Eurospin. Sì, quella è bella Rom, però cioè, come la penso io Anto, se ho preso la macchina, se mi hanno dato questa macchina qua, preferisco avere le migliori possibili di capsule, tipo le Borbone o le Lavazza. Per mettere bella Rom, allora me lo faccio con la Mocca, capito? No, ti dico che sono buone, ti dico, ma no, non è così, no, dico che vanno bene. Comunque, se vuoi trovare il Borbone devi andare in Viale Dante, c'hanno anche il Toscano, cioè, ma il Borbone è più buono, la verità, qualità oro, la paghi di più, però non te ne pensi. Hanno aperto anche una megafedeletta, praticamente rimane salendo sulla destra c'è il fioraio, poco a poco sulla sinistra c'è questo, questa rivendita di caffè per macchinette, via Gratta dell'Etta, dove prima c'era un bar lì, c'è una rivendita. Io sempre via Le Dante le prendo, dove c'era Cosmotto una volta, te lo ricordi? Cazzo, me lo ricordo. Io le prendo lì, è molto fornito. È enorme quel negozio, c'è di tutto e di più. Sì, ma come la porto l'integrazione da è bello, bello, bello pieno lo stesso. È molto. C'ha anche la vasta. Ho letto lì, nella vettata c'è il caffè Borbone, infatti è buono, io lo bevo, vabbè, io lo bevo del caffeinato, ogni tanto, quando ne ho voglia. Se no, bevo ginseng. Ma a proposito, può fare anche ginseng con la macchinetta a me? Ehi Anton, me l'hanno detto, forse anche qualcos'altro. Però io più che altro 99% mi interessa il caffè. E non ne dovrei nemmeno bermi. Oh, stanotte un incubo. Fino alle 7:30 di mattina sveglio. E quindi praticamente ho dormito tutta la mattina e il pomeriggio. Fai tu, fa anche il tè e limone, che quel, guarda, io ho provato il Ristora che è il migliore di tutti. Lo paghi un po' di più, ma è il migliore. Il mio ritmo di dormire, io mi devo per forza alzare, adesso vai anche alle 8, ma neanche se manco mi alza alle 8, mi alzo ben presto. Faccio la mia colazione con il latte, se sgarro, non devo sgarrare. Poi magari posso anche devo ricoricare, ma non ci riesco. Poi la sera un paio d'ore, lo stesso, mi sono dalle 2 alle 4, così alle 5 massimo. Poi mi alzo, merenda, poi sto di nuovo lì, abbacchiato lì nel divano. Abbacchiato, l'abbacchio. Come dice cosa? L'abbiocco, non so abbiocco se sia un termine sassarese o derivi da altre regioni. E via, va bene. Inizia, mi pare si chiami, Anton, quella del Long in Espresso, modello Inizia. E io l'ho detto abbacchio. È uguale, abbacchio. Capito Anton, modello Inizia. Boh, a me sembrano tutte uguali queste macchinette, ma... No. Cambia, sono più grandi quella dell'Espresso. Ma è meglio la moto mio, la verità. Ma molte cose anche. Vabbè. E comunque, sì. Allora, sto guardando un po' modelli, prezzi. Alla fine, ma... Infatti quando lo voglio veramente buono vado al bar direttamente. Ok, caffè cattivi al bar non ne ho più assaggiati. Una volta c'era un bar che lo faceva, aveva un sapore di bruciato, ma di bruciato. Bruciato, proprio caffè bruciato. La sera mezzo bucaccione. Ma a meno che non fosse la varietà del caffè. La varietà del caffè, non lo so, però era brutto, non mi piaceva niente, saporaccio, pucci, a me non piaceva, a me piace più dolce il caffè, ma non che sappia di catrame, no, di bitume. Sai che sapore di curva, va via. Che schifo, te le immagini? Praticamente prendono i tarzanetti, gli fanno la torrefazione, no, li tostano, poi li fanno in polvere e fanno il caffè con quelli. Ogni schifo. Ah, carità. Come c'è cane, 34. Eravamo sempre con i primi trichi, con Panzuzzi, e coso. È uscito qua su Netflix, no? Su Mediaset Player. Sono i film e quelli gratuiti, come il programma di TV, vabbè, ecco qua, qua sotto, il programma boh, vediamo. Ah, ecco, sta caricato. C'è un bel cose, cioè che tutti gratis. I pure già mi piacciono. Con lo smart people non lo fa, Sì, io me l'ho installato di roba gratis, Mediaset Play, no, Rai Play, scusa, Rai Play e Mediaset, come si chiama? Sì, Mediaset Play si chiama, però la roba a pagamento ovviamente non si vede, e lì o si va per altre vie, insomma. Questo di film ne guarda Luca, questi film gli piacciono, Canale 34, via. Sì, c'è Ricky e Barabba, mi pare, carino, con De Sica e, come si chiama, Bodale, Bozzetto. No, vabbè, se voglio roba hot vado direttamente sul sito YouPorn, capito? E che c'è mamma, cioè io non posso mettermi roba in TV. Qui entra lei. Cosa stai facendo? Unietta di servente. No, infatti no. Non fa guardare cos'è. Finché si tratta di smartphone. Ehi, aspetta che leggo il messaggio. Vedi, pure eccolo lì, il film li guarda belli. È altro che Barabba, Vedi, a me è Paolo Villaggio, per me era numero uno. Era troppo forte, era troppo esagerato. C'è anche Pozzetto, però Paolo Villaggio era Paolo Villaggio. Poco buglione era nella vita. Bozzo facendo gli auguri, e quella dietro in TV, ogni boccaglio. Sta cantando una canzone. Il minchiofono. Allora Luca, il 3009 nostro è monofinale, cioè c'ha il pilota e il finale vero e proprio. Oddio, 7 watt, forse 8, non so se arriva a 10, però ti mangia tutta la radio. Cioè, te ne accorgi a vista d'occhio, più alzi, più la modulazione diminuisce. E siccome io prediligo sempre la bontà della modulazione, l'ho lasciato a 4 watt di fabbrica, anche perché mi serviva da mostrare in caso di controlli questo capitolo. Ah, sono 3009 adesso. Allora, a me... Aspetta. Scala 20. Scala 20. 5 watt fischiati. Sì, questo invece l'ho lasciato nudo e crudo di watt e anche di canali, cioè 40 canali. Poi volendo già c'è l'altro, il gemello, che però gli si è fulminato lo smitter, porca miseria, e non ho voglia di metterlo a posto. Devo cambiare la lampada, devo smontare mezzo apparecchio per una lampadina del cacchio. Mi dovesse succedere, qua ho messo la lampadina blu, con quella del 3009. Bianco per me al telefono, un attimo. Io sì. Stai comandando un paio di wafer, c'ho fame. Ma ti mangi? Un paio di wafer, quelli erano ciò. Cappa mia, allora. Ma ci ho mangiato un poco di riso allo zafferano. Ma mi ha ancora fame, ha già messo la gorgonzola. E mi ha già mangiata. Ecco. Quando va giù qua mi mangio. Ah, fai bene. Cioè, dopo non funziona più un pipistrello. Dopo non funziona, no. Non lo fai mangiare bene, mangia imparatetto. Vabbè, dai, già sono carini questi film. Però sempre coordinato con un villaggio. Infatti mi stavo guardando l'altro giorno. Una scena, poi c'era il, allora, era Paolo, ov'era? Era il titolo, se non mi ricordo. La bestia, forse non mi ricordo. Marco, ci sei? Ci siete? Altro che nocchi! sai, un attimino ero al telefono e non so, vi lascio, io vado a vedermi il film di Kebarabba, dai, non avendo preparato niente di alternativo, mi voglio sdraiarmi un po'. E poi se Dio vuole sentiremo nei giorni a venire, quando ne voglia, dai. Oggi non ero uscito anche, sono stato un po' fuori di sera perché sennò mi sta prendendo male questa situazione. Ho sentito anche che dal 7 vogliono fare ulteriori proroghe delle misure restrittive, cioè qua finiamo dallo psichiatra me, con queste chiusure forzate o comunque questi limiti. Ma perché non se ne vanno a quel paese? Cioè, va bene la salute fisica, no, cerchiamo di evitare, ma anche la salute mentale ce la vogliamo mettere. Vabbè che la mia è già compromessa, comunque. Dai, ciao a tutti, ci sentiamo. Luca anche se l'ascolto, ci sentiamo, vado alla TV. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, buonanotte, ce la risentiamo. Luca, ci sei? Sì, ciao Marco, buonanotte, alla prossima. Metti appena di goccio e si sente solo voi, sentite, non si sente. Tanto guarda che è 34, mia porcellina lì. E lo so, guia, io ho fatto la bugnetta. Ti pare che c'è bisogno di mamma mia? Vabbè, ma uno piace, cioè. Emergenza si chiama. Emergenza Covid. No, invece emergenza bugnetta. Sarà che ne ha fatto. Io. Va bene, dai, allora ti lascio la buona visione, buonanotte a tutti. Ciao a tu, buonanotte domani, ciao. Ciao, buonanotte.